L'atto terzo si inizia con un preludio che compendia tutta la poesia di una notte friulana, fresca di rugiada e di amorose attese. Barbe Basili sogna il paradiso, ma è tentato ancora una volta dal suo demone segreto. Gli riappare perciò San Pietro minaccioso. Salirà tuttavia al cielo avvolto nell'onde di una musica celestiale, legato a una corda che il furbo barbiere farà calare dall'alto, dopo aver affidato al cappio della stessa il pignattino del tesoro. Davanti a lui, come nella vicenda di Renzo e Lucia, stanno i promessi che si giurano fede reciproca. Inutile aggiungere che il tesoro è già passato nelle loro mani. Thank you. Dies ist mein Mann. Und was wird mit mir? Du hast gebrochen. Schuld ist der Staub, der verflixte Staub. Stehen die Zeugen mit der Mitgift. Jesus, Onkel, sagt Frau Corona, war nicht ein Schelm dieser Sankt Johann. Alle brachte er durcheinander, man muss nur staunen, was er getan. San Pietro, dal suo finestrino, sorride compiaciuto a Barbe Basili, alleggerito del suo peccato e degno ormai del paradiso. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Selezione da Barbe Basili e il Paradis. Favola lirica in 3 atti di Lea Dorlandi. Musica di Ezio Vittorio. Nella interpretazione del complesso artistico dello Stadttheater di Klagenfurt.